tonight, the usual talk, is on the Paticca Samuppada, which you find in the middle of your chanting sheet. Quindi il discorso di questa sera riguarderà il Paticca Samuppada, che si trova nel foglio dei canti che recitiamo al mattino, proprio a metà. Paticca Samuppada Anuloma. And we see that it's usually prefaced, usually begun with the Buddha's victory verse. Vediamo che di solito è introdotto da questi versi di vittoria del Buddha. Can you read them? Sì. Allora dice, no, ci sono gli occhiali comunque. Cercando ma non trovando il costruttore della casa, ho viaggiato attraverso i cicli di incontabili nascite. Quanto dolorose sono le nascite che si ripetono incessantemente. Oh, costruttore di case, ora sei stato preso. Tu non costruirai di nuovo una casa. I tuoi travetti sono stati rotti. La tua trave maestra è stata demolita. La coscienza incondizionata è stata realizzata. E ogni tipo di brama è stato distrutto. So you see in this verse the Buddha first of all is telling us that he's taken quite a long time to get where he is. Quindi vedete che in questo verso intanto il Buddha ci dice che si è voluto parecchio tempo per arrivare dove è arrivato. And he sees the one who's building this house. E quindi lui vede la persona, insomma, ciò che sta costruendo, che ha costruito questa casa. So he's talking about his body, his mind, his personality as his house. Quindi sta parlando del suo corpo, della sua mente, della sua personalità come la sua casa. And he's caught him, you see, he's caught the constructor in the act. Quindi come se avesse proprio colto in flagrante il costruttore. And once he's caught, you see, he cannot build another house. Quindi una volta che l'ha colto in flagranza di reato, diciamo, una volta che l'ha beccato, non potrà più costruire altre case. And then he says he has realized unconditioned consciousness. E poi dice che lui ha realizzato questa coscienza incondizionata. Vi sankaragatam cittam. Quindi vi è l'ultima frase, no? This is sankara. You see, sankara means made up. Quindi sankara significa ciò che è costruito, messo insieme. And gata means sort of going with construction. E gata significa andare, quindi andare con la costruzione, quindi costruire. And his V means no more. E V significa è un prefisso negativo, quindi non più, non costruirà più. And then he says that all his craving, all his unwholesome desires have been completely destroyed. Quindi dice poi successivamente che tutti i suoi desideri non salutari sono stati completamente distrutti. So now this Paticca Samuppada is telling us how he did it. Poi Paticca Samuppada ci dice com'è che ci è riuscito, come l'ha fatto. So this of course was a reflection after his enlightenment. Ovviamente questa è stata una riflessione dopo la sua illuminazione. It is said that on the day that he was enlightened, the first watch of the evening, that's the first 4 hours, he went through it in how we construct suffering. Quindi si dice che la notte in cui si è illuminato, nella prima parte della notte, cioè le prime 4 ore, lui ha come dire, percorso questa catena di fenomeni condizionati, così come si costruiscono. And then he spent the next watch of the night going, showing how it was undone. E poi successivamente nell'altra parte della notte, quindi le altre quattro ore, ha spiegato come questa catena, diciamo, veniva disfatta. And then he spent the last watch of the night going forward and backward just to make sure. Poi l'ultima parte della notte è andato sia in una direzione che nell'altra, sia costruire che decostruire, così solo per essere sicuro che l'avesse capita bene. Actually, in the very early scriptures, you don't get all these links. In realtà, nelle prime scritture non ci sono tutti questi collegamenti, questa concatenazione. Yeah, it would seem it did develop over some time. Pare che si sia sviluppata poi col tempo. If you look at the scriptures, the first part is very spontaneous. He's talking to individuals. Se guardate le scritture, la prima parte è molto spontanea, sta parlando degli individui. And then the next part, the teaching has become categorized. Poi nella seconda parte questi insegnamenti vengono categorizzati, insomma, sistematizzati. And then right at the end you just get lists. E poi alla fine c'è solo una serie di elenchi. And this develops later into what we call the Abhidhamma. E poi tutto questo poi si sviluppa in ciò che successivamente sarà l'Abhidhamma. Abhidhamma, yeah. So we begin with this word avijja. Quindi si comincia con questa parola avijja. Now you see it's normally, is it not the Italian translation? You've got the Italian translation, avijja. No, il fatto è che non c'è la traduzione italiana. Ma c'è traduzione italiana. Mi toccherà farla. Sì, quello al contrario. No, they have it. Allora, so avijja, ignoranza. Ignoranze? Ignoranza. Ignoranza. Ignoranza. So, ignoranza is a word which brings with it some idea that you should know. You know, you're ignorant. Quindi, sì. Ignoranza porta con sé questa idea che tu dovresti sapere qualcosa, quindi qualcosa che non sai. But this is basically don't know. Però questa non è proprio la traduzione corretta, perché avijja è il non sapere. And that what is it that doesn't know? Quindi cos'è ciò che non sa o che non conosce? What is it? Cos'è? Le illusioni. Non sappiamo le illusioni come illusioni. No, but what is it that does not know? Sì, però la domanda è cos'è ciò che, cioè, è una persona che non conosce o un soggetto che non conosce. It's when you're in meditation and you're looking and feeling and seeing. That's what doesn't know. Quindi quando si è in meditazione e si sta guardando, si sta osservando, è quello ciò che non conosce. Yeah, he doesn't know, sì. Now, if you think of our little ceremony this afternoon, you see. Pensate alla nostra cerimonia di questo pomeriggio. So here we have little Nina who's arrived in this world. Abbiamo questa piccola Nina che è arrivata nel mondo. See, what does she know? E cosa sa? Cosa ne conosce? Sì. So there is some programming because of her past lives and because of society. C'è una certa programmazione dovuta alle sue vite passate o la società, i contatti con la società in cui vive. But it's not set in stone, eh? Ma non è scritto sulla roccia. It can be changed by experience, by information, etc., etc. Può essere modificato dall'esperienza, informazioni e via di seguito. So there she is, she's born, and she knows perhaps her mother's voice, mother's warmth, see? Quindi lei nasce, cos'è che sa? Sa probabilmente conosce la voce di sua madre o il calore di sua madre. And it would seem that for the first 4 months it's just two dimensions. It's just information coming in. E pare che nei primi 4 mesi sia bidimensionale, semplicemente informazione che entra. Everything seems to be me. Tutto sembra essere me. Ah. It seems from, we have to believe our psychology, around 4 months, this object begins to separate out. Quindi pare che, e qui dobbiamo accettare con le teorie psicologiche, che con una cosa sperimentale, insomma, che è a 4 mesi che il bambino comincia a differenziare il sé dall'altro. And the first object is of course mamma. Il primo oggetto ovviamente è la mamma. Then very slowly the world begins to separate out. E poi molto lentamente il mondo comincia appunto a separarsi. And at some point there's me and all this. E a un certo punto ci sono io e poi tutto il resto. Now, we know that when the child is born, they are already experiencing emotions. Però sappiamo che sin dalla nascita il bambino sta provando delle emozioni. Most times already crying. Il più delle volte sta già piangendo. What a beginning, eh? Che bell'inizio. And so, we, all of us, we have come into this world from a place of don't know, and suddenly all this information. Quindi tutti noi siamo entrati in questo mondo da un luogo in cui non sapevamo, non conoscevamo, e poi improvvisamente abbiamo addosso tutta questa informazione. And we are trying to, in some way, understand it. In qualche modo stiamo cercando di comprenderlo. What is driving our search for understanding? Ma cos'è che in qualche modo spinge, che ci porta a ricercare la comprensione? So at this age there's no thinking as we know it, there's no conceptual thinking, there's no words. Beh, a questa età non c'è un pensiero concettuale così come noi lo conosciamo, non ci sono parole. So what is the baby chasing? Quindi cos'è che il bambino, insomma, il neonato sta rincorrendo? So it's chasing happiness, eh? Sta cercando la felicità. And when it's not happy, it tells you. E quando non è felice te lo fa capire. All night sometimes, eh? A volte anche tutta la notte. So there is this not knowing, and there is a mind which is full of habits. Quindi c'è questo non conoscere e poi c'è una mente che è piena di abitudini. Even in our Western, psychology, it is said that the child is not a tabula rasa. Anche nella nostra psicologia occidentale si dice che il bambino non è una tabula rasa. The baby already comes in with conditioning. Il bambino già nasce con dei condizionamenti. Whether you believe it's from past lives or it's something in the genes, it doesn't matter. The fact is, that's how we're born. Sia che voi crediate nelle vite passate o che sia una questione genetica, però le cose stanno così. Nasciamo in questo modo. But from the Buddha's point of view, the fundamental reason for these habits arises from this initial position of not knowing. Ma secondo il punto di vista buddista o del Buddha, l'origine, il motivo per cui ci sono queste abitudini nella mente è perché partiamo proprio da questa posizione del non conoscere, del non sapere. And driven by the desire for happiness, we form a relationship with the world. E spinti da questo desiderio di felicità, allora stabiliamo una relazione tra noi e il mondo. So right from the beginning, the child is developing a relationship with the world, and this is the meaning of ethics. Quindi sin dall'inizio il bambino stabilisce questo rapporto col mondo, e questo è alla radice dell'etica. So the Buddha makes consciousness an ethical faculty. Quindi il Buddha fa della coscienza una facoltà etica. That is why in our practice that you cannot move with wisdom unless your ethical side is running with it. Ed è per questo che nella pratica non si può agire con saggezza se l'aspetto etico non corre parallelo alla saggezza, ad essa. because the delusion that we suffer from manifests in our relationships. Perché l'illusione di cui noi soffriamo si manifesta nelle nostre relazioni. What would you think if the Buddha was caught shoplifting? Cosa pensereste se il Buddha fosse colto mentre sta rubando nei negozi? You would have doubts, no? Avreste dei dubbi. You think he's enlightened? Comincereste a dire, ah, e lui è un illuminato? So we begin with these sankharas. Sankhara. Cominciamo con questi sankhara, quindi. So these sankharas are about relationship. Quindi questi sankhara hanno a che vedere con la relazione. Now the first relationship, the first object before mama, the first object is the relationship between this consciousness, which is unconditioned, and the body and mind the consciousness finds itself in. Quindi la prima relazione non è in realtà con la madre, ma follow me please, sì, no? Sì. È in realtà tra la coscienza e questa coscienza incondizionata e il corpo mente attraverso cui la coscienza si manifesta. Sì. Correct? No? Ok. Try again. Try ancora. Ancora? Ok. So the relationship is not between a person and the mother, but it's between the unconditioned consciousness and the body-mind through complex. Which it manifests. No, yes. No. Within which it manifests. Ah. Cioè, quindi è la relazione tra questa coscienza incondizionata e il corpo-mente dentro le quali si manifesta la coscienza. Even though there's no conceptual thinking, the relationship is absolute. Anche se non c'è un pensiero razionale, però questa relazione è assoluta. I am this human being. Io sono questo essere umano. It doesn't think that, but that's what it knows itself to be. Quindi non è che lo pensi, però sa di essere così, di essere quello. And it's seeking happiness. E questo essere sta cercando felicità. So now, once we seek happiness, we then, as you know, we become dependent on it psychologically. E quindi voi sapete che quando cerchiamo la felicità diventiamo poi dipendente da essa psicologicamente. So the delusion manifests as an attachment, a dependency on the pleasures and joys of the world. Quindi l'illusione si manifesta su questa dipendenza, questo attaccamento alle gioie del mondo. Now, once we have become psychologically dependent, you see, we are afraid to lose it. Una volta che diventiamo psicologicamente dipendenti, allora nasce poi la paura di perderla, la felicità. And whenever we see the possibility of loss, whatever is the cause of that loss becomes my enemy. E poi quando vediamo questa possibilità di una perdita, qualunque cosa sia la causa di questa perdita diventa il mio nemico. So hatred, aversion, violence arise. E quindi sorgono l'odio, l'avversione, la violenza. So these are our three fundamental attitudes arising from this deep delusion. Quindi questi sono i tre atteggiamenti fondamentali che sorgono in virtù di questa profonda illusione. Acquisitiveness. Quindi questo. Come si dice? Acquisitiveness. Come si dice? Acquisività. Si dice in italiano? Acquisività. Perché no? In other words, collection. We collect, we gather bank accounts. Quindi è questa tendenza ad accumulare, a volere, a raccogliere. And to hold on to it. e poi a trattenere ciò che abbiamo, quindi la tendenza ad acquisire, possiamo dire, no? From this we get the two prongs of aversion. Da qui vengono fuori le due spigole. Spigole. Le due punte, diciamo, no, dell'avversione. One is fear and the other one is hatred. Come si chiamano? Quelli che usano per mandare avanti le mucche, per esempio. I pungoli, ecco, i due pungoli. Uno è la paura and the other, fear and hatred, sì. Aversion. E l'aversione. Hatred. So here we see this ignorance manifesting as a delusion. Quindi vediamo l'ignoranza che si manifesta come illusione. Me, this is me. Quindi dire questa sono io. Mm. And it begins to form a relationship with the world. Che comincia a formare questa relazione con il mondo. Which immediately puts it in conflict. E immediatamente che il mondo che immediatamente lo mette l'essere in conflitto. Because I always want more than I can get. Voglio sempre più di quello che riesco ad ottenere. And then the more I have, the more I'm afraid of losing it. Più cose ho e più ho paura di perderle. And the more I have, the more people are jealous of it, so I have to fight my enemies. E più cose ho, più le persone sono invidiose, quindi io devo combattere contro i miei nemici. It's amazing how we can live in peacefully. E quindi è incredibile come si riesca persino a vivere in pace. So these are the constituents of this sankhara. Quindi queste sono le parti costitutive, diciamo, di questi sankhara. No, hold on, that's not right. These are the three motivations that create the sankhara. Allora, si corregge, queste sono le tre cause, le tre motivazioni che creano il sankhara. Mm. The sankhara are all those habits that we have dependent on these three attitudes. Quindi sankhara sono tutte quelle abitudini che abbiamo che dipendono da questi tre atteggiamenti di cui ho parlato. Mm. Now, so that's the connection between avidya, ignorance, not knowing, delusion, me, creation of a relationship, creation of habits. Quindi questo qui è il collegamento, no? Tra questo avidya, il non conoscere, che porta a questa illusione del me, che porta a una relazione che crea a sua volta delle abitudini sbagliate. Then we have now we have sankhara paccaya vijnanam. So upon sankhara, dependent upon sankhara, consciousness arises. E poi abbiamo i due anelli successivi, diciamo, no? Quindi dependent on sankhara. Dunque, in dipendenza dai sankhara nasce la coscienza. Mm. Now this vijnana is not the same as the unconditioned consciousness of the Buddha's verse. Questa vijnana qui che abbiamo tradotto come coscienza non è la stessa coscienza di quella incondizionata di cui parlava il Buddha nel versi precedenti, no? Versi della vittoria. Mm. It refers to the ability of the mind to create a primary knowing. Perché qui si riferisce a questa facoltà della mente di creare questa conoscenza primaria. Mm. The word cognition is used. Si usa la parola cognizione. Mm, cognizione. Those of you who know the five aggregates, this is the aggregate of consciousness. Per coloro che conoscono i cinque aggregati, beh, qui si riferisce all'aggregato della coscienza. And the consciousness depends on what is in it. E la coscienza dipende da ciò che sta dentro. Mm. My own image of that is like a television screen. La mia immagine di questo è come fosse uno schermo televisivo. So all the programs or a monitor, computer monitor, same. All the programs are coming towards a screen. Quindi immaginiamo piuttosto magari un monitor di un computer, come se tutti i programmi andassero verso lo schermo. Mm. And it's only on the screen that we can understand it. Ed è solo sullo schermo che noi riusciamo a capire il programma. We can't get behind the screen. Ma non riusciamo ad andare dietro lo schermo. No. We can only know what is in consciousness now. Noi possiamo solo sapere quello che è presente nella nostra coscienza adesso. We can only be aware of what arises on this mental screen. Noi possiamo solo essere consapevoli di ciò che sorge in questo schermo mentale. Mm. Okay. And of course the screen can hold all the information about our body, the senses. Quindi ovviamente questo schermo può contenere tutte le informazioni che ci derivano dai nostri sensi. Mm. All the feelings that come from our emotions. Tutte le sensazioni che derivano dalle nostre emozioni. And all the mental images and sentences. Tutte le immagini e le parole mentali, diciamo, immaginate. When we form an I, when we become I, quindi quando formiamo questo io. Diventiamo un io, we fall into the screen. È come se noi cadessimo dentro questo schermo. When we're meditating, we're pulling ourselves out of the screen. Invece quando meditiamo è come se ci allontanassimo da questo schermo. Mm. And because we can push the screen away and look at it, we can see how it's working. E poiché riusciamo a allontanarci e vedere a una certa distanza questo schermo, possiamo effettivamente osservare il suo funzionamento. Mm. Now, this unconditioned consciousness, the Buddha says, he has, we can say, become, in a way. Questa coscienza incondizionata che il Buddha dice di essere diventato. Mm. It knows itself in the screen. Si conosce dentro lo schermo. Mm. As an image. Come un'immagine. Sì. Mm. And this image is both a concept, a picture. Questa immagine è sia un concetto, and it's also, see, and it's also a feeling. Ma è anche un sentire. Mm. And this is what we're experiencing when we are the observer. Ed è quello ciò che noi stiamo sperimentando quando siamo l'osservatore. See? So we are looking at the screen of the mind, of the mind, of the body, heart, mind complex. Quindi noi stiamo guardando questo schermo del complesso mente, corpo, cuore. Mm. And I can see myself in that screen. E io riesco a vedermi in quello schermo. And this comes back to me as a feeling of self. E questo mi ritorna con questo senso di un sé. Ah, sì. And I might say to myself, this is what I am. Allora io potrei dire a me stesso, ecco, è questo quello che sono. Now, when you look in the mirror and you see your face, we presume that this is how people see us. Quando ci guardiamo allo specchio e vediamo il nostro volto, noi supponiamo che questo è il modo in cui gli altri ci vedono. But it's not true, eh? Ma non è vero. No. Have you all done the two mirror trick? Avete mai fatto questo trucchetto del doppio specchio? No. Oh. You must. Dovete farlo. You must do the two mirror trick. Dovete fare questo trucco del doppio yes, specchio. Yes. I can assure you, you will be shocked. Vi assicuro che sarete scioccati. When you look at your face in the mirror, it's the other way around, eh? What do you mean? It's quando vedete la vostra faccia allo specchio è opposta, cioè è girata dall'altra parte. Mm. If you hold a mirror here to see this image, oh. E se voi tenete uno specchio in questa posizione per vedere l'immagine dell'altro specchio, quello che avete di fronte. You knew you had a big nose, but not this big. Voi sapevate di avere un grosso naso, ma non così grosso. It's like when you first hear your voice on a cassette, you know, quando sentite la vostra voce per la prima volta registrata. Or when you see yourself in a video. O vi vedete in un video. We never live up to our own image. This non is the problem. Siamo mai all'altezza della nostra immagine. So, here we have the Sankhara coming towards this faculty that we call cognition. Quindi qui abbiamo questi Sankhara che vanno verso questa facoltà che noi chiamiamo cognizione. If there's no Sankhara, there's no cognition. Se non ci fossero i Sankhara, non ci sarebbe neanche la cognizione. So, in deep sleep, there's no cognition. Quindi nel sonno profondo non c'è questa cognizione. Sì. Now, from Vijnana Paccaya Namarupa. Now, this is the consciousness, depending on consciousness, the body and mind arise. Quindi, in questo senso, come si dice, collegamento successivo, in dipendenza dalla coscienza, sorgono Namarupa, cioè mente e corpo. Mente e corpo. Now, the body and mind here refer to the mind as we know it, thoughts, images, emotions. Quindi qui mente e corpo si intende la mente così come noi la conosciamo, cioè i pensieri, le immagini, le emozioni. But the rupa, the body, is really referring to how the mind experiences matter. Ma per quanto riguarda rupa, quello che significa è come la mente esperisce, diciamo, la materia. And here we have the four great elements. E qui abbiamo i quattro grandi elementi. So it is some combination of pressure, the earth element. Quindi è una combinazione tra la pressione, che è l'elemento terra. Fire, the heat element. Il fuoco, cioè l'elemento calore. Which includes sight, you see. E questo comprende anche la vista. The pressure is the hearing. La pressione è l'udito. Water element, which is that which coheses, keeps things together. Poi c'è l'elemento acqua, che è quello che tiene insieme le cose. And the wind element, which is movement. E poi c'è l'elemento aria, che, che è il movimento. So all these have their opposites, see, so... Heat and cold. Tutti questi elementi hanno il loro opposto, quindi c'è il caldo, freddo. Pressure, no pressure. La pressione, invece la leggerezza, la non pressione. Cohesion and no, just a disparate, you know, disparate falling apart. Sì, poi c'è invece questo la coesione e la dispersione. And movement and stiffness, tightness. Poi c'è il movimento e invece la rigidità. So here the sankhara are the habits which are coming up all the time, awakening onto this screen of cognition. Quindi abbiamo questi sankhara, cioè queste abitudini che continuamente risvegliano questa cognizione, no? Questo schermo. And the cognition lets us into the body, the fullness of the body and mind, through consciousness, ed è through questa cognition. Cognizione, e attraverso questa cognizione che noi possiamo entrare nel corpo, nella mente. Now the Buddha said that these are like two sheaves of wheat leaning against each other. Buddha ha detto che questo è come se fossero due sheaves, or like il grano, quando si mette il grano, covoni di grano, ma covone è uno, comunque due che si appoggiano uno all'altro. Yeah. So with consciousness the body mind complex arises. And because of the body mind complex, consciousness, cognition arises. Grazie alla cognizione o alla coscienza, sorge la mente e il corpo, e grazie alla mente e al corpo sorge la cognizione o coscienza. Now, sono praticamente, si appoggiano uno all'altro. Yeah. The ignorance and the sankhara are always potential. Perché l'ignoranza e il sankhara sono sempre potenziali. What is actual is the body, mind, consciousness. Quello che è effettivo è la coscienza del corpo e della mente. So in our lives, you see, in our lives, body, mind, consciousness, moment after moment, day after day, day after day. Quindi nella nostra vita c'è questa coscienza del corpo e della mente che va avanti praticamente, sorge e passa, insomma, nell'arco della giornata, un giorno dopo l'altro. Mm. Underneath there runs these habits, sankhara. Sotto ci sono queste abitudini, sankhara. And beneath that is this deep ignorance, this deep delusion and ignorance. E ancora sotto scorre questa profonda illusione, questa ignoranza. Always running underneath, you see? Okay? Now, dependent nama rupa pachaya salayatana. So, dependent on this body mind, the six senses. Quindi sulla base, indipendenza dalla nama rupa, cioè di questa mente corpo, sorge la sorgono i sensi, i sei sensi. Mm. So the five senses and the mind itself as a sense base. Quindi sono i cinque sensi più la mente stessa come base dei sensi. So for those of you who know the five aggregates, the mind as a sense base is the second one. What's it called? Perception. Quindi per voi, per quelli che conoscono i cinque aggregati, la mente vista come vista Sanya. Come base sensoriale. Sanya. Grazie. Sanya. Sanya. Sì. Corrisponde appunto alla percezione, cioè al secondo dei cinque aggregati. La mente vista come base di un senso. Corrisponde alla percezione. And the mind itself is a sense base for memories and images, etc. It must have a sense base, you see. Quindi la mente stessa è una base sensoriale per le immagini, i ricordi e così via. Mm. So, just as the retina is the sense base for our ability to see, così come la retina è la base sensoriale per ciò che noi vediamo, The brain is the sense base that we can have memories and thoughts and emotions, which are then transferred as feeling into the body. Il cervello quindi è la base sensoriale che ci permette di avere immagini, emozioni che poi comunque vengono depositati, diciamo, nel corpo e percepiti nel corpo. Yes. Okay. So now we come to the point of experience, the point of contact. E qui arriviamo al punto di contatto, il punto dell'esperienza. So this point of contact is what we are experiencing moment after moment. Quindi questo punto di contatto che è fasso è quello che noi stiamo sperimentando momento dopo momento. Mm. So now you can see, here I am, I have this deep delusion. Quindi possiamo vedere, eccomi qui, io ho questa profonda illusione. I have all these bad habits. Ho tutte queste cattive abitudini. I have now got this, the six senses, I've got my mind and my body, the six senses. Quindi ho poi il mio corpo, la mia mente, ho i sei sensi. Mm. And I go upstairs to the dining room. Vado su alla sala da pranzo. And I see a biscuit. E vedo un biscotto. From underneath, you see, there comes this biscuit. Da sotto, dalle profondità, diciamo, viene fuori questa parola, biscotto. Yeah, it's biscuit, you see. So, dependent on the object, my sense base, the eye, and consciousness, you see, I have this moment of contact. quindi sulla indipendenza da questo biscotto, quindi da questo oggetto esterno, c'è praticamente l'organo della vista, che è l'occhio, collegato con la coscienza visiva, e quindi i due entrano in contatto. Now, at this point of contact, there is no definition. I'm now talking about the initial contact. Quindi c'è questo contatto iniziale. At this initial contact, there is no discrimination between pleasant or unpleasant. Quindi a questo punto, quando c'è semplicemente un contatto iniziale, non c'è differenza tra piacevole e spiacevole. When the contact is discriminated or defined as pleasant or unpleasant, then it becomes a vedana. Quando c'è invece questa discriminazione, e quindi il contatto diventa o piacevole o spiacevole o neutro, allora lì nasce vedana, che è il contatto, l'anello successivo. Now, up until this point, it is beyond our control. It is conditioned. Fino a questo punto va oltre il nostro controllo, perché è tutto un processo, una concatenazione condizionata. It's conditioned from the past through the sankhara. È condizionato dal passato attraverso il sankhara. It's conditioned by my genetics, this body. È condizionato dalla mia, come dire, dalla mia genetica, questo corpo. If I'm blind, I won't see the biscuit. Perché se sono cieco non vedrò il biscotto. So, at the point of contact, it's totally dependent upon my body-mind complex. Quindi fino al punto del contatto, tutto questo processo è completamente dipendente dal condizionamento del mio corpo e mente. And when I perceive it, when I experience it as pleasant or unpleasant, this is conditioned by both the body and mind and my society, my social conditioning. E quindi quando ho la percezione di un oggetto come piacevole o spiacevole, questo è condizionato sia dal complesso mente-corpo e sia dalla società in cui vivo. This is a good place for a pause. Questo è un buon punto dove fare una piccola pausa. I shall. Chapter 2 will be tomorrow. No. Sì. Domani sera ci sarà la seconda puntata. Sul più bello. Because this takes me another long time to get through this, you see. Okay. Siamo a metà della concatenazione dell'originazione dipendente. And then we have to go backwards, you see. E quindi la seconda parte richiederà molto tempo. E poi dobbiamo andare al contrario, cioè da come la costruiamo, come la decostruiamo. Everything that we have spoken of this evening, we can directly experience through our practice, you see. Tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera lo possiamo direttamente sperimentare con la nostra pratica. In Western terms, the Buddha is a phenomenologist. In termini di in termini di filosofia occidentale, filosofia occidentale, il Buddha può essere definito come un fenomenologista, cioè this means fenomenologo. This means that only that which we perceive exists. E questo significa che per noi esiste solo quello che possiamo percepire. In the Buddha's time, the world and consciousness were one and the same thing. Ai tempi del Buddha, il mondo e la coscienza erano un'unica cosa. They did not have the concept of an object, of the idea that I could see the world objectively, as it is. Non avevano quest'idea che io potevo vedere il mondo in modo oggettivo, così com'è. This is a delusion which has come with our scientific revolution. E questa è un'illusione che è venuta con la nostra rivoluzione scientifica. Uh, Of course, it's allowed us to make great discoveries and amazing technology. Ovviamente ci ha permesso di fare delle grandi scoperte e arrivare a delle importanti innovazioni tecnologiche. But it's still a delusion. Ma è comunque un'illusione. And these days neurobiology proves that we can only know what we can know. We cannot know beyond our consciousness. Adesso anche la neurobiologia dimostra che noi possiamo solo conoscere quello che possiamo conoscere, cioè non possiamo andare oltre la nostra coscienza. So in the Buddhist time, whenever you see the word world, it means the same as consciousness, individual consciousness. Quando leggete qualcosa riferito a ciò che il Buddha diceva ai suoi tempi, quando parla del mondo si riferisce, cioè è sinonimo di coscienza. Di coscienza. And just referring back to his victory verse. Per tornare di nuovo ai suoi versi della vittoria. When a man asks him, where do the four great elements come to an end? Quando qualcuno, un uomo gli ha chiesto, quando è che questi quattro grandi elementi si esauriranno, arriveranno alla loro fine? Yeah, so the four great elements, remember, are the way we contact the world. E ricordate che i quattro elementi sono il modo in cui noi entriamo in contatto col mondo. He said, this is the wrong question. Allora lui gli ha risposto, questa è la domanda sbagliata. You should ask, where do these four elements not find a footing? Tu dovresti chiedere, dov'è che questi quattro elementi in qualche modo non trovano un appoggio, una base d'appoggio? Ah, ecco. And then he says, there is a consciousness, you see, which is not colored by any of these six senses. Allora lui spiegò che c'è una coscienza che non è tinta, non è colorato attraverso questi sei sensi. Without boundary. Ed è illimitata, cioè senza confini. No phenomena, no nothing. Senza fenomeni. And in all directions full of light, awakeness. E in tutte le direzioni è piena di luce. Just this is the end of suffering. Ed è proprio questa la fine della coscienza, della sofferenza. And that's what we really are. Yes. Questo è. Yes. This is what we really are. Questo è ciò che realmente siamo. Ecco. Bon. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. But they have not added to your confusion. Che non abbiano aggiunto alla vostra confusione, nulla alla vostra confusione. But have clarified the way even further. Ma che abbiano chiarito ancora meglio la via, il sentiero. And that you will tread along sprightly to your liberation. E che la percorrerete questa via sempre più energicamente, vivacemente fino alla vostra destinazione finale. Sooner rather than later. E questo prima piuttosto che poi. So we can keep to our schedule, I think. Quindi possiamo rispettare il nostro orario. Keep to our schedule.